Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati in ascolto di Assemblea On Air, la trasmissione settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In questa puntata, il piano regionale dei rifiuti, l'emergenza maltempo che ha provocato gravi danni nel Piacentino e non solo, e poi il progetto per installare un rigassificatore al largo di Ravenna e altri temi al centro dei lavori del Consiglio regionale. In studio, Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. Ma partiamo subito con la nuova programmazione regionale sulla gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate. L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il piano che tra gli obiettivi delineati per i prossimi 5 anni prevede il raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata al 2025, la tariffazione puntuale estesa a tutti i comuni dell'Emilia-Romagna, riciclaggio al 66% e stop alla pianificazione di nuove discariche per i rifiuti urbani indifferenziati. Altro punto qualificante è la bonifica dei siti inquinati. Per il relatore di maggioranza Gianni Bessi del PD, la qualità principale del nuovo documento di programmazione consiste nel sostenere l'economia circolare e i rifiuti non sono più considerati uno scarto ma una risorsa. Voto favorevole anche da Lista Bonaccini e da Emilia Romagna Coraggiosa. Sentiamo il capogruppo Igor Taruffi. Sicuramente positivi gli interventi sulle bonifiche, un pochino meno positivi diciamo altri interventi che caratterizzano questo piano. Noi abbiamo portato il nostro contributo introducendo due emendamenti. Il primo per obbligare i comuni a introdurre la tariffa puntuale, quindi far pagare ai cittadini solo quello che effettivamente producono di rifiuti indifferenziati, e dall'altro l'impegno al 2025 per verificare la possibilità di chiudere gli impianti di termovalorizzazione, almeno un impianto, visto e considerato che l'obiettivo è quello di ridurre la quantità di rifiuti. Nell'ampia discussione in aula le opposizioni hanno sollevato critiche. Dal relatore di minoranza Emiliano Occhi della Lega, dito puntato sui mancati obiettivi del piano rifiuti precedente e sui traguardi della futura pianificazione che a suo avviso contiene ancora previsioni poco realistiche. Voto contrario anche da Forza Italia, Rete Civica, Giulia Gipertoni del gruppo Misto e da Fratelli d'Italia. Il capogruppo Marco Lisei ci spiega il perché. Se vogliamo salvare l'ambiente e migliorare le nostre performance sui rifiuti bisogna coinvolgere i cittadini attivamente e positivamente. Purtroppo la nostra regione sconta invece una grande difficoltà di gestione dei rifiuti, in particolare ERA non fornisce servizi adeguati, i cittadini vengono mazziati con una tassa di rifiuti particolarmente alta senza ricevere dei servizi adeguati. La raccolta porta a porta in molte città non funziona e la differenziata stenta. Questo anche perché i cittadini bravi non vengono premiati, ma si pensa soltanto a punire chi non aiuta. Posizione di astensione per Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle. Astenuta anche Europa Verde, già al lavoro, per nuove proposte di legge. Ascoltiamo la capogruppo Silvia Zamboni. Il voto di Europa Verde è un voto di astensione perché ci sono gli elementi positivi nel piano dei rifiuti, come la riduzione ulteriore del ricorso alla discarica, l'impulso alla raccolta differenziata. Aspettavamo però degli obiettivi più ambiziosi per quanto riguarda la riduzione della produzione dei rifiuti. A questo io contribuirò con due progetti di legge, uno per la vendita dei prodotti sfusi alla SPIN per ridurre gli imballaggi e l'altro per la produzione di compost da rifiuti umidi. L'Assemblea legislativa ha anche trattato alcuni ordini del giorno collegati al piano dei rifiuti, contenenti indicazioni per la Giunta regionale. Per incentivare l'economia circolare, l'atto firmato da Lia Montalti e altri consiglieri del PD chiede un aggiornamento della legge regionale in materia. Sentiamo Montalti. Punta su una spinta più forte nella direzione dell'economia circolare, quindi anche rivedendo la legge regionale esistente, e poi vogliamo mettere l'accento su tutto il tema del monitoraggio e della valutazione del piano, perché solo in questa maniera si possono rendere sempre attuali le politiche. Un aspetto innovativo del nuovo piano regionale dei rifiuti è quello che riguarda le bonifiche dei siti inquinati. In un ordine del giorno presentato da Silvia Piccinini dei 5 Stelle e approvato dall'Assemblea, si impegna la Giunta a prevedere nel 2023 risorse specifiche per supportare i comuni nello studio delle contaminazioni ambientali attive, per arrivare più velocemente alla bonifica dei siti stessi. Sul tema si è espresso con un atto di indirizzo poi bocciato dal voto anche Marco Mastacchi di Rete Civica. Con il mio ordine del giorno chiedo alla Regione di fornire ai comuni gli strumenti per poter attivare una procedura automatica che faccia sì che questi siti automaticamente vengano gestiti, perché il rischio altrimenti che rimangano dimenticati, come è successo per il sito di Vigarano Mainarda ex Orbit, che a una mia richiesta mi è stato detto che non è segnalato nei siti da bonificare, con il rischio che rimanga una ferita sul territorio mai gestita. Per Emiliano Occhi e Fabio Rainieri della Lega, l'autosufficienza sui rifiuti speciali, senza prevedere in Emilia-Romagna nuovi impianti in cui conferirli, è una chimera. Da qui un ordine del giorno collegato al piano rifiuti, poi respinto dall'Aula. Sentiamo Emiliano Occhi. Abbiamo presentato un ordine del giorno per aumentare la dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti speciali. Questo per evitare la continua esportazione, anche tramite mezzi camion, mezzi inquinanti, sulle altre regioni. Quindi vogliamo utilizzare tutti i nostri impianti, nel caso ne servano di più, nella nostra regione per trattare tutti i nostri rifiuti speciali. Passiamo ad altri temi trattati nell'ultima seduta dell'Aula con l'interrogazione a risposta immediata presentata alla Giunta regionale. Giulia Pigoni, della lista Bonaccini, ha affrontato il tema delle risorse da dare ai comuni per far fronte in modo adeguato all'aumento delle domande di iscrizione ai servizi per la prima infanzia. Sentiamola. Oggi circa il 40% dei bambini rischia di rimanere escluso dalle graduatorie. La vicepresidente Ellie Schlein mi ha risposto che mai così tante risorse sono state messe su questo capitolo, su questo settore, e quindi molto bene, speriamo però che vengano messe a terra il prima possibile, perché abbiamo la necessità di dare risposta a quelle famiglie che oggi hanno questa problematica. Sul piano di recupero delle prestazioni sanitarie arretrate a causa del Covid e sul rientro nei tempi d'attesa previsti si è invece focalizzato un question time di Valentina Castaldini di Forza Italia. Ad oggi non esiste ancora sulla carta un vero e proprio piano di recupero per queste liste d'attesa. È evidente che siamo in forte ritardo e ad oggi noi dell'opposizione e in particolare Forza Italia chiediamo che questo piano venga illustrato sia in aula che in commissione. Per rispondere all'emergenza energetica innescata dalla guerra in Ucraina c'è anche un progetto che riguarda l'Emilia-Romagna. Si tratta dell'installazione di un rigassificatore galleggiante al largo di Ravenna. Una nave di ultima generazione lunga 300 metri riporterà il gas naturale liquefatto allo stato gassoso. Dalla piattaforma Petra in mare, un gasdotto tutto interrato porterà il gas alla rete nazionale. A presentare il progetto nella seduta congiunta delle commissioni politiche, economiche e territorio è stato Elio Ruggeri, amministratore unico di Snam. Sentiamolo. Viviamo una situazione emergenziale in termini di approvvigionamento gas. Dobbiamo sostituire almeno 30 miliardi di metri cubi di gas, che sono i volumi che attualmente importiamo dalla Russia, e dobbiamo farlo anche nel tempo minore possibile. L'unica soluzione oggi disponibile per essere così rapidi è quella di installare dei terminali galleggianti di stoccaggio e rigassificazione del GNL. L'impianto di rigassificazione dovrebbe entrare in funzione tra luglio e settembre del 2024. Al momento è prioritario compiere il percorso delle autorizzazioni nei 120 giorni previsti dal decreto. Nel dibattito Gianni Besti del Partito Democratico ha parlato di una risposta alla crisi energetica. Silvia Zamboni di Europa Verde e Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle hanno messo in evidenza le perplessità del mondo ecologista per l'impatto che il progetto potrà avere sull'ambiente e sulla sicurezza del porto di Ravenna. Marco Mastacchi di Rete Civica ha chiesto attenzione alle tecnologie che verranno utilizzate perché, ha sottolineato, si devono tutelare la sicurezza del mare e del comparto della pesca. Igor Taruffi di Emilia Romagna Coraggiosa ha invitato a mettere in campo diverse soluzioni per risolvere il tema dell'energia, anche diversificando le fonti. Cambiamo argomento e passiamo a un'iniziativa che ha coinvolto 10 istituti penali dell'Emilia Romagna, da Rimini a Piacenza, dove si sono recate altrettante delegazioni composte anche da consiglieri regionali, per consegnare ai detenuti una guida con tutte le informazioni per accedere alle cosiddette misure alternative al carcere. L'iniziativa è stata promossa dal garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri e dal presidente della Commissione Parità e Diritti Federico Amico. Sentiamo il garante. Uno strumento che serve, dicevo, a ricordare che i detenuti sono portatori di diritti, che la società ha dei doveri a supportarne il loro recupero e il loro inserimento, e lo strumento, facilitandone la comprensione, ha l'ambizione e l'obiettivo di innalzare la coscienza della comunità e dei detenuti in quelli che sono gli strumenti di benefici e quindi dell'approdo verso la società esterna dei percorsi penali. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.mr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.